Mix 24 di Giovanni Minoli. Massacrato per non aver voluto tradire Palmira fino all'ultimo. Khaled al-Assad sarebbe morto perché si era rifiutato di rivelare all'ISIS dove siano stati nascosti i tesori di Palmira. La sua morte ha sconvolto gli studiosi di tutto il mondo. L'archeologo siriano, per 50 anni a capo delle antichità nel sito di Palmira, è stato decapitato dopo un mese di prigionia. Il corpo dell'81enne studioso, una volta decapitato, è stato appeso a un palo della luce. Ultimo sfregio non solo a un grande intellettuale, ma alla cultura millenaria di un luogo considerato uno dei tesori mondiali dell'archeologia. È il 18 agosto del 2015, appunto, come avete sentito, l'82enne Khaled Assad, dopo essersi preso cura dei tesori archeologici di Palmira, compie l'estremo sacrificio. Palmira è rimasta sotto il controllo dello Stato Islamico dal maggio del 2015 fino a pochi giorni fa. Le immagini di propaganda dell'ISIS in questi mesi hanno mostrato l'accanimento dei miliziani contro i monumenti più importanti della città vecchia. Oggi tutti si chiedono cosa è rimasto dell'area archeologica e del museo. E sulle pagine del Corriere della Sera l'archeologa Maria Teresa Grassi, che a Palmira ha scavato e studiato dal 2007 al 2010, scrive: «Sappiamo che i terroristi hanno polverizzato i templi. Adesso credo si debba restituire la giusta fisicità ai monumenti distrutti a Palmira dall'ISIS, ricostruendoli con le tecnologie che oggi abbiamo a disposizione». Ecco, la Grassi si riferisce esattamente alle mega stampanti in 3D della società WASP di Massimo Moretti, con il quale noi avevamo già parlato di questo suo lavoro alcuni mesi fa. È importante, riascoltiamolo adesso. Massimo Moretti della società WASP, creatore di una stampante in 3D, una stampante alta 12 metri, in grado di ricostruire quello che i terroristi dell'ISIS stanno cercando di cancellare dalla faccia della terra. Davvero si può dire così? Beh, così è sicuramente adatto a quello di cui si parla in questo momento, però in realtà la macchina che stampa deposita materiale e può ricostruire ciò che è diventato, che può essere digitalizzato. Quindi vale anche per quello che hanno distrutto i terroristi dell'ISIS? Anche per quello. Come funziona questa stampante? Praticamente stampare significa depositare materiale in maniera controllata seguendo delle coordinate che vengono date da un computer. Quindi ci sono dei processi di trasformazione delle foto in 3D. Dopodiché si depositano materiali. Il grosso vantaggio dato da questo approccio è che si possono fare degli impasti di materiali anche del posto, quindi si possono usare i detriti rimasti, insomma i materiali che sono rimasti dalla distruzione di questi monumenti, per esempio? Sì, una cosa del genere c'era la chiesta di farla anche per terremoto in Nepal, quindi le applicazioni sono trasversali. Nepal state già facendo una cosa di questo genere? Ma in Nepal c'è il problema dei trasporti, si fa fatica a arrivare nei posti, ci sono 10 ore per fare 100 km, quindi avere una macchina che raccoglie i detriti tritati, ridà forma. Vabbè, è un problema di tempo, ma non di possibilità. C'è la possibilità. Assolutamente sì. E quindi voi potete rifare, no, perché questo agli ascoltatori interessa molto, voi potete rifare i monumenti. Noi possiamo rifare anche i monumenti. E quindi il progetto per ricostruire in scala reale qualcuno di questi antichi manufatti distrutti in Siria e in Iraq potrebbe essere attuato. Senta, ma in questo modo si può dire che la memoria non potrà non essere mai più distrutta. E questa è veramente una frase che è universale. Quando noi abbiamo trasformato in digitale i dati, quando abbiamo la tecnologia per dar forma a quei dati, la memoria non può essere distrutta e la cultura, se uno lo vuole rinnegare la sua, magari la possiamo trapiantare da mirare da noi. Tanto ricordo i nostri numeri 800 24 00 24, numero verde per chi volesse telefonare, 349 238 6666, l'SMS. Ecco Maria, insomma è abbastanza affascinante questo fatto, no? Sì, sono le grandi scoperte della tecnologia. Ecco, però dico, per ricostruire Palmira naturalmente è necessario un accordo con i siriani, no? Beh, direi proprio di sì. Soprattutto quindi... bisogna che ci sia la sicurezza prima per poterlo fare. Però poi gli italiani lì possono fare molto, sia in fase di restauro classico che appunto con l'uso delle nuove tecnologie. Ecco, Pietrangelo, però se si riesce a ricostruire questi monumenti con queste stampanti in 3D, insomma, il valore storico è salvato, cioè com'è? Beh, al di là delle stampanti abbiamo esempi nella storia. Quando noi andiamo ad ammirare la bellezza di Dresda, ammiriamo qualcosa che è stata ricostruita nei minimi dettagli, era stata distrutta dagli americani e poi i tedeschi l'hanno ricostruita nell'esatta perfezione di ogni dettaglio. Perfino l'hotel Adlon a Berlino è stato ricostruito seguendo le planimetrie, fin nei minimi dettagli. La stessa cosa se si pensa per esempio alla meravigliosa cittadella di campagna degli zar che venne distrutta dai tedeschi, è stata ricostruita nei più minuti dettagli dai russi. Le stesse porte che per esempio accompagnavano all'ingresso della Piazza Rossa, che vennero distrutte per far entrare i missili nelle parate militari sovietiche, sono state ricostruite, così un'infinità di chiese, di conventi. Quindi dici, tutto sommato, questa tecnologia è solo uno strumento in più. Abbiamo un rapporto di distanza con le vestigia del lontano passato, ma le memorie recenti di opere d'arte mirabili sono state restituite. Purtroppo la ferocia dell'uomo si accanisce a maggior ragione quando c'è la bellezza. Certo. Ecco, ricordo ancora il nostro numero 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Allora entriamo dentro il problema politico legato alla riconquista di Palmira. L'ordine e la stabilità sono tornati a Palmira. Controlliamo anche tutte le colline che circondano la città. Le forze governative siriane hanno riconquistato la città di Palmira. L'ISIS aveva conquistato Palmira nel maggio dell'anno scorso. Ci sono i caschi blu per difendere giustamente le popolazioni. Abbiamo immaginato che ci siano delle forze che tutelano il patrimonio prima che venga distrutto. La liberazione e la cacciata dei militanti dell'ISIS è arrivata dopo una campagna condotta dalle milizie di Assad e sostenuta da intensi attacchi aerei russi. Ambasciatore Sergio Romano, buongiorno. La riconquista della città di Palmira è una svolta in qualche modo, no? O solo un simbolo? Beh, è un simbolo in realtà, la sconfitta... certamente è cocente per lo Stato islamico, ma sarà veramente sconfitto soltanto quando saremo riusciti a colpire i suoi centri più nevralgici e soprattutto a eliminare questa minaccia permanente nella regione. Senta, Putin comunque è il vincitore in questo giro, diciamo così. Come fanno gli Stati Uniti adesso a dire che il suo intervento non serviva a nulla? Questo lo dicono perché qualche volta per ragioni di propaganda si possono anche dire delle bugie. Io credo piuttosto che Putin abbia vinto questa partita perché era il solo in quella faccenda che sapeva esattamente che cosa voleva, qual era il suo obiettivo. Il suo obiettivo era sostenere Assad perché Assad gli avrebbe garantito quella presenza in Siria che è fondamentale per la presenza russa nel Mediterraneo. E gli altri invece avevano politiche ambigue, molto incerte, incerte, volevano questo ma volevano anche il contrario di quello. Insomma, Putin aveva le idee chiare e questo è stato fondamentale. Ecco, però ambasciatore, sembra quasi che non esistano più i cremlinologi alla Casa Bianca, un'impressione sbagliata? Ma io credo che esistano piuttosto quelli che della vicenda della Russia hanno una un'idea già confezionata, che non hanno alcuna voglia di modificare, di cambiare, perché sono, io credo, fortemente influenzati da quella parte della NATO che considera la Russia il nemico permanente E credo che questo oltretutto giovi a quel complesso militare che ha sempre bisogno di avere un nemico, altrimenti certo, non si giustificherebbe la sua esistenza. Ecco, ma a questo punto tutta la strategia delle cancellerie occidentali è da rimettere in qualche modo in discussione, a patto che ce ne fosse una chiara, appunto, come dice lei, non tanto evidente. Ma io credo sì che dovrebbe essere rimessa in discussione, non sono convinto che questo sia il momento giusto per farlo, o piuttosto il momento adatto per farlo, perché in una situazione in cui Obama è alla fine del suo mandato, gli Stati Uniti non hanno ancora deciso chi sarà il loro prossimo presidente, e per di più potrebbe essere anche una grossa incognita, non soltanto per noi tutti, ma anche e soprattutto per la nazione americana. Insomma, per queste ragioni, chi si siede intorno al tavolo in cui queste cose dovranno essere certo, discusse e decise? Ecco, anche il ministro degli esteri italiani, Paolo Gentiloni, ha esultato via Twitter dicendo Palmira libera. Ecco, però la cosa che non è chiara è con chi stiamo noi, con Assad, con Putin, con Obama. Avevamo una posizione via Assad e transizione, l'abbiamo cambiata? Difficile capire. Ma anzitutto l'Italia ha degli interessi, bisogna pur confessarlo, limitati nello spazio e nel tempo. Non è immaginabile che l'Italia debba essere coinvolta in tutto ciò che accade nella regione, certo, soprattutto perché sì, sarà coinvolta per gli effetti, ma non avrebbe possibilità di azione e di influire. L'Italia ha un grosso problema, che è quello della Libia, quello sì, quello certo, certo, ed è quello a cui inevitabilmente ci dovremmo dedicare più di quanto non siamo riusciti a farlo, ma devo dire e devo aggiungere anche per come dire, per oggettività, che non è poi colpa nostra se non ci siamo riusciti, perché mi pare che il guaio l'hanno fatto altri, certo, noi lo abbiamo ereditato. Oggi in questo momento non c'è nessuno che abbia le idee chiare sulla Libia, e le nostre sì sono abbastanza chiare, ma se non riusciamo a creare un governo nulla si può non fare. Si riesce a fare nulla. Senta, in ogni caso mi pare che stia emergendo uno scenario di potenza in Medio Oriente molto chiaro. Russia e Iran hanno giocato una partita, la stanno vincendo. Sì, attenzione, la stanno vincendo probabilmente in Siria, che è soltanto da parte del problema, del quadro. Sì. Quindi vi sono altre questioni che rimangono sospese, in cui tutto sommato, per esempio, la Turchia è certamente molto più importante di quanto non siano la Russia e l'Iran. Certo. E lì staremo a vedere, perché anche in Turchia mi sembra che le idee non sono sempre chiare. Senta, ambasciatore, ma tutto questo non dovrebbe in qualche modo suggerire un cambio di strategia agli Stati Uniti, o il loro sforzo si sta spostando sul Pacifico e nel giardino di casa, cioè in Sud America? Ma questo è in qualche modo il retaggio di Obama. Obama in questa ultima fase si è dedicato principalmente prima al Pacifico e poi all'America Latina, e devo dire che nell'America Latina ha realizzato un rovesciamento della situazione di cui forse qui noi in Europa non siamo ancora sufficientemente consapevoli. Ancora 5-10 anni fa l'America era diventata il nemico da odiare in America Latina. Certo. E il sentimento anti-Yankee, per così dire, era molto diffuso e certamente gli americani ne soffrivano, ma a questo punto veramente è riuscito a rovesciare la situazione. Ecco, ambasciatore, una cosa ancora, ma non sappiamo ovviamente chi vincerà le elezioni americane, però abbiamo letto e ascoltato che Trump non vuole più pagare il conto della NATO e che vuole dare l'atomica al Giappone e alla Corea del Sud. Ecco, il neoisolazionismo americano, secondo lei, è lo scenario di fondo nel quale si muove la politica estera americana? Certamente, devo dire che questo accadrebbe anche paradossalmente se il candidato della sinistra venisse eletto. Sanders in fondo non è molto meno isolazionista, non è meno isolazionista di quanto sia Trump. Molto probabilmente non sarà eletto nell'uno o nell'altro, ma che la NATO sia terribilmente invecchiata, questo mi pare che debba essere detto. Chiaro. E che da questo debbano essere tratte delle conclusioni. Perché lei è convinto che vincerà la Clinton, no? Ma penso di sì, penso che vincerà, anche se non è amata da una larga parte dell'opinione pubblica americana. le stanno facendo un processo infinito per l'uso di un server di posta elettronica privato che in qualche modo è esposto al rischio della diffusione dei segreti del Dipartimento di Stato, ma non vi sarebbe tanto accanimento se non vi fosse in qualche modo il desiderio di evitare la sua presidenza, forse perché le dinastie non piacciono, forse perché tutto sommato gli uomini, forse anche se non è confessato, è confessabile, piacciono più delle donne. 9:19:59 secondi, ricordo ancora 800 24 00 24 il nostro numero verde per chi volesse intervenire e commentare in diretta, per gli sms 349 238 6666. Ecco Mario, insomma, al vincitore, anche Romano lo dice con, mi sembra con chiarezza, il vincitore è Putin, il perdente diciamo in qualche modo è l'Occidente. Ma perché il perdente? Per la sua ambiguità. Putin vince perché ha le idee chiare su quello che vuole. Sì, Putin vince perché ha chiaro l'obiettivo, ha meno problemi a decidere, bisogna anche dire la verità su questo ovviamente, e soprattutto c'è un problema secondo me grande di visione della contemporaneità da parte dell'Occidente. Cioè, voglio dire, che Palmira andasse aiutata dal cosiddetto mondo libero, no? Che così si qualifica, si autoqualifica, era abbastanza evidente. Voglio dire, io non dimentico quello che è successo a Kobane, con una città assediata da ISIS, dove gli abitanti venivano massacrati e dove l'Occidente non ha fatto nulla. Quella è stata una delle nostre vergogne. Ora, tu capisci che quando io leggo ministri delle cancellerie occidentali, europee, italiane, esultare per Palmira libera e non porsi l'interrogativo di che cosa non abbiamo fatto noi, e non porsi l'interrogativo del fatto che è Putin il game changer insieme all'Iran, insieme al Libano, insieme agli sciiti afghani. Io ho letto con attenzione tutti i dettagli disponibili sulla battaglia di Palmira, e la battaglia di Palmira è la metafora di quello che sta accadendo nello scacchiere medio orientale, un cambio completo degli equilibri. L'Europa dovrebbe interrogarsi su questo. Noi non abbiamo mosso un dito. Comunque una cosa è certa, che emerge questa lezione dalla battaglia di Palmira, che senza la Russia e senza l'Iran in Medio Oriente non si vincono le guerre, vero Pietrangelo? Non si scappa. Non si scappa. In questi giorni ho sfogliato attentamente i giornali e la cosa che mi colpiva era tutto l'esercizio nel nascondere la vera sostanza delle cose. Importanti giornali italiani, i più autorevoli giornali italiani con i loro commentatori, i loro editorialisti, non spiegavano che cosa era successo effettivamente. Cioè, come ha già detto Mario, come ben si è spiegato anche la scelta che hai voluto tu, Giovanni, di fare una puntata su questo è singolare nel panorama italiano, dove la discussione è di fatto censurata, cioè l'opinione pubblica italiana non è informata del fatto che Palmira è stata liberata dall'esercito siriano. Non viene detto perché c'è un atteggiamento di censura imposto ai giornali italiani. Cioè viene liberata da sola. Viene liberata. Sola, liberata. Non c'è un commento dell'amministrazione americana su questa cosa. No, no. E fa eccezione, vorrei sottolinearlo, Alberto Negri sul Sole 24 Ore, che pone una domanda chiave. Ora, probabilmente l'esercito siriano, con l'aiuto dei russi, con l'aiuto di Hezbollah, con l'aiuto delle milizie sciite, libanesi, afghane, arriveranno a Raqqa. Ci auguriamo che sconfiggano il califfato. Ci auguriamo che vincano questa battaglia. Poniamoci la domanda che ha voluto proporre Alberto Negri. Se si fosse confermato lo schema Gheddafi, e cioè fosse stato eliminato immediatamente Assad, cosa sarebbe accaduto? Questo è il vero problema. Infatti noi vogliamo andare avanti in questa analisi per capire come è stata liberata, cioè la guerra lì, la battaglia, come è stata fatta. Interessante saperlo con Gian Andrea Gaiani, che è il direttore di Analisi Difesa. Ecco, tu hai scritto un duro editoriale sul Mattino per denunciare il mancato impegno militare dell'Occidente per la liberazione di Palmira. Cioè, praticamente noi non abbiamo, non solo censuriamo, come dice giustamente Pietrangelo, ma non abbiamo fatto nulla, è così? Beh, ci siamo stracciati le vesti, abbiamo pianto il direttore. Solo parole, insomma, solo parole, ma neanche una bomba per aiutare le forze di Assad a liberare Palmira. Ecco, l'agenzia... lo hanno fatto i russi, ecco, lo hanno fatto infatti, le truppe siriane. Infatti, ne parliamo. L'agenzia di Stato siriana, per l'appunto, sostiene che sono bastati solo mortai leggeri e uomini di fanteria. Cioè, tecnicamente, cosa vuol dire? Che serviva poco battere l'ISIS in quella zona? No, significa che loro hanno fatto un grande bombardamento d'artiglieria con gli aerei russi per spianare la strada, sì, ma arrivati al sito archeologico, per liberare quello, hanno usato truppe, fanteria e mortai leggeri per non danneggiare ulteriormente un patrimonio archeologico che almeno per il 20% è stato completamente distrutto dallo Stato islamico. Quanti uomini sono stati necessari? Ma la forza siriana messa in campo per liberare tutta la zona di Palmira è circa 6.000 soldati. E a Palmira c'erano solo siriani? Siriani e Hezbollah libanesi, almeno un battaglione, quindi qualche centinaio. Sì. E probabilmente anche forze irregolari siriane, non so, e qualche consigliere militare iraniano che è sempre presente. E anche sicuramente qualche forza speciale russa, no? Quelli ci sono sempre. Ecco, ma perché nell'Europa, negli Stati Uniti, nella Gran Bretagna sono intervenuti? Ma perché per la Gran Bretagna, lo ha detto un portavoce britannico responsabile di Downing Street per la Siria, Bashar Assad è comunque il nemico, è comunque un nemico insieme. Ma è sempre meno nemico di tutti gli anglosassoni, diciamo. Gli americani lo volevano morto, adesso mi sembra che incominciano a ragionare anche loro. Ma io credo che sia stato i russi a imporgli il fatto che Bashar Assad non può essere tolto di mezzo, se no la Siria diventa un paese governato dalla Sharia, e soprattutto le vittorie militari russe e siriane di fatto stanno mettendo all'angolo l'opposizione moderata e stanno sconfiggendo l'opposizione jihadista. Certo. Quindi insomma i dati di fatto obbligano gli americani a essere pragmatici. Ecco, però sull'intervento in Siria lo sappiamo, Obama è sempre stato riluttante, Putin invece ha dimostrato che la guerra può essere corta e con un obiettivo chiaro. Che differenze ci sono tra le dottrine militari di Stati Uniti e Russia? Ma diciamo che la Russia in 6 mesi ha fatto un numero di raid aerei quasi uguale a quello condotto dalla coalizione a filo americana, guida americana, in 1 anno e mezzo. Già questo ti dice molto. E poi soprattutto la Russia ha concentrato i raid sui punti sensibili del fronte nemico, che non era solo l'ISIS, ma era anche Al-Qaeda e altre milizie jihadiste. E quindi insomma la Russia ha fatto la guerra sul serio, sul e soprattutto serio. La Russia aveva un coinvolgimento diretto nella sua visione strategica. Se cade Bashar Assad, il prossimo fronte del jihad potrebbe essere il Caucaso russo. Certo, ma sull'Independent Robert Fisk, che è un autorevole corrispondente del Medio Oriente, ha scritto che di fatto c'è la volontà americana di annientare i jihadisti, ma non troppo. È vero? Sì, perché questa campagna aerea è stata condotta. Ma perché non troppo? Perché fanno finta e basta? Ma forse perché i grandi alleati degli americani in quella regione, il Qatar e l'Arabia Saudita, sono sponsor neanche troppo nascosti di diversi movimenti jihadisti, da quello dell'ISIS ad Al-Qaeda, anche la Turchia, che è un grande alleato. Ma l'America, gli Stati Uniti possono continuare a avere l'Arabia Saudita come alleato principale? Beh, anche noi possiamo continuare ad avercelo, considerato che tutti gli imam salafiti che creano, che ideologizzano giovani in Europa, vengono mandati in Europa dall'Arabia Saudita, dai Wahhabiti sauditi. Ecco. Cioè, è un problema che riguarda tutto l'Occidente. Ecco, appunto, riguarda tutto l'Occidente. Allora? Allora è ora di cambiare. Bisogna scegliere, siamo arrivati al momento di scegliere. Credo che dovremmo intanto definire quali sono i nostri interessi nazionali e anche sovranazionali, in base a questi cercarci gli alleati giusti. Senta, un'ultima cosa, ieri Franceschini ha detto siamo pronti, parlava dei suoi caschi blu. Culturali. Che facciamo? Mettete le immagini, i funzionari del Ministero dei Beni Culturali a Palmira in mezzo ai non me le immagino. Che Putin sta mandando a sminare il sito archeologico che è pieno di ordigni inesplosi. Forse era meglio non dirlo, insomma. Se le immagini i nostri funzionari col casco blu, ecco, neanche io. Ecco Pietrangelo, insomma, da questo quadro che stiamo facendo comunque emerge un Islam, l'esistenza di un Islam che combatte i terroristi, Quindi diciamo anche le semplificazioni che abbiamo letto dopo Bruxelles forse vanno aggiornate. Di fatto la prima vittima del terrorismo è l'Islam, che viene marchiata a sangue come religione di morte nell'opinione pubblica, ma ahimè, ai noi, la semplificazione domina, perché nel sentimento comune della gente, che anche in buona fede, pur ignorante, deve assorbire un'infinità di notizie confuse e allo stesso tempo manipolate, non riesce ad avere il senso delle cose. Il fatto stesso già di porre problematicamente la questione paga una colpa, tant'è vero che chiunque osa dire qualcosa che non sia da bar sport viene immediatamente marchiato come terrorista. Tanto per fare un esempio, scusa Giovanni, Al-Qaeda e ISIS in Siria si stanno ammazzando gli uni con gli altri, cioè. Sentiamo Umberto da Reggio Emilia. Buongiorno Umberto. Buongiorno, buongiorno. No, molto, molto brevemente un commento, una riflessione sentendo voi. Mi viene da dire che l'episodio di Palmira, che è una grande vittoria, al di là della dichiarazione secondo me improvvida di Gentiloni, che da una parte diciamo con il suo governo è anti-Assad e dall'altra applaude alle vittorie degli altri, ma questa è una caratteristica tutta italiana, tutta nostra. Andiamo sempre in soccorso ai vincitori, insomma. Dal dopoguerra ad oggi siamo specializzati, ma io dico che questa guerra la si può vincere, perché di guerra si tratta. Certo. Basterebbe semplicemente decidere da che parte si vuole stare. Questo sarebbe già importante. Infatti, andare avanti, perché o la vinciamo noi o la vincono loro. Non c'è dubbio. Tutto qua. Va bene, grazie Umberto. Ecco Mario, per chiudere questa terza guerra mondiale a pezzi, come dice il Papa, mi sembra che cominci a prendere connotati chiari, insomma. Sì, i connotati di una battaglia del predominio di una parte dell'umanità sull'altra, purtroppo. Questo è il punto. Lo scenario è pessimo, le armi di distruzione di massa proliferano. Bisogna avere paura, però. Io non dico non bisogna avere paura, bisogna avere paura, perché il grande motore della reazione è proprio la paura, cioè quando tu sei avvertito del pericolo, quando sei desto, quando sorvegli la situazione, questo è il punto. Quando non, insomma, non chiudi gli occhi. Esatto, quando ascolti musica. Quale musica? Sentiamola. Chissà, chissà, domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. Mix 24. Abbiamo Giuseppe da Torino. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo semplicemente dire che l'Occidente, per fare le guerre, non è disposto a sacrificare delle vite umane. Questo è il problema. Nessuno vuole mandare i propri figli lì a morire. Un conto è difendere i propri confini, un conto è mandare dei soldati all'esterno per fare delle guerre. Giuste, per carità, giustissime sotto il profilo morale, culturale, è tutto quello che volete. Lo so, ma non è so detto. Quante famiglie sono disposte a mandare i propri figli lì a morire. Nessuna, ovviamente. Nessuna è disposta, ma naturalmente gli interessi superiori delle volte fanno fare delle scelte che, se uno non fa più, non è detto che trovi sempre qualcuno che lo faccia per lui. Così. E poi comunque alla fine c'è il conto da pagare. Grazie Giuseppe. Allora Pietrangelo, che cosa ci fai sentire? Arriva. Stupid and it's strange, it's a directionless story. The dialogue is lame, but in the he said, she said, sometimes there's some poetry. If you turn your back long enough and let it happen naturally. Oh yeah. Oh hell yeah. Oh yeah. Oh hell yeah. I got a face like a faccia? È una faccia che è come una stretta di mano molle, i capelli che sono quelli di una scena da incidente, le risposte sbagliate, le domande giuste, un fiume di persone per strada, bello da guardare, ancora più bello da lasciarsi trascinare. Via ha telefonato la solitudine stamattina, ha chiesto questo brano e ha voluto dedicarlo al maggiolone rombante per andare incontro alla primavera. Mario, sì. Zeno ci scrive una cosa interessante. Sì. Ci indicate dove leggere notizie complete sulla guerra? Cominci con questo, War on the Rocks. È un sito italiano pure che vorrei suggerire, è intellettuale dissidente. War on the Rocks. Va bene. Intanto dove andiamo con le tue bolle? Sentiamo. Io penso che di quel viso, che era così bello, aperto, solare, ho un'immagine di lui, di un viso che era diventato piccolo, piccolo, piccolo, che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. E non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Perché si è riversato su lui? E quindi su quel viso che era diventato piccolo, piccolo, colori che non vi dico, forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. I would like to leave this city, this old town don't smell. Quelle parole, quello sguardo, quella fierezza, quel desiderio di verità. Giovanni, sì. Pietrangelo, ieri noi abbiamo visto la forza mamma. Di una mamma. E Paola De Fendi, la madre di Giulio Reggeni, ha messo in campo, secondo me, quello che manca quasi sempre alla politica contemporanea, e cioè il cuore, il dolore e il desiderio della verità e dell'azione. Ho letto stamattina il ministro degli esteri dichiarare sul Corriere la Sera che l'Egitto deve darsi una mossa, altrimenti vedremo. Ecco, io spero che questo accada, perché ne abbiamo visto già tante in questa storia, in questi giorni. Non so cosa volete dire voi, ma certo. Sono rimasto molto colpito dalle parole di quella mamma. Pietrangelo. No, io vorrei aggiungere un elemento di polemica politica e ricordare agli ascoltatori, e oggi per esempio su Repubblica Mario Calabresi invoca la dignità, ancora due giorni fa invece faceva una lunga intervista ad Al-Sisi senza però, mi pare di ricordare, non so, voi avete una memoria più forte, la richiesta di dignità. Ricordare che comunque Al-Sisi, questo governo, questo Egitto, è di fatto uno degli alleati più forti e più caldeggiati dall'attuale governo italiano. Purtroppo è la necessità della politica questa, mi spiace, è molto dura questa vicenda. È dura veramente. Ecco, noi adesso parliamo di un'app particolare, utile, che dovrebbe aiutare delle persone che hanno difficoltà. Alessandra Cravetto ci racconta appunto la storia di un'app particolare. Alberto Rizzoli, 22 anni, con altri due soci giovanissimi come lui, ha creato iPoly Vision, una app che aiuta a vedere chi non vede, cioè utilizzando un'intelligenza artificiale abbiamo inserito, diciamo, questa intelligenza all'interno di un'applicazione che riesce a vedere tramite la telecamera di un telefono e capire ciò che sta vedendo. Quindi come funziona? Ad alta voce. Quindi basta accendere questa applicazione e puntare il telefono a degli oggetti o a dei colori ed ascoltare la descrizione. Quindi se uno è non vedente può identificare il mondo che è intorno. Come vi è venuta l'idea di creare una app per non vedenti? Noi abbiamo studiato a Singularity University, dove ci viene insegnato di utilizzare queste tecnologie esponenziali che crescono di giorno in giorno in maniera esponenziale per aiutare il maggior numero di persone possibile. Il miglior utilizzo, secondo me, della visione computerizzata, dell'intelligenza artificiale, è quello di aiutare proprio chi non può vedere. Quindi una persona ipovedente è in grado di fare cosa con la vostra app? Ad esempio, se si trova in un luogo nuovo, in una camera d'albergo, nella casa di qualcun altro, di solito le persone ipovedenti e non vedenti vogliono costruire un'immagine mentale di dove si trovano, perché altrimenti certo. Si tratta di una zona sconosciuta. Quindi nel poter andare anche in cose tutti i giorni, come i bagni pubblici, possono identificare la zona che hanno intorno senza dover stare a toccare le cose o a dover sentire con il bastone. È un sostituisce il bastone, insomma. In un certo senso, sì. Come si fa a scaricarla? Basta, se si ha un iPhone, Android sarà disponibile tra circa un mese, basta andare sull'App Store, si chiama iPoly Vision, iPoly Vision, mm-hmm. ed è gratuita, quindi tutti la possono scaricare, anche i vedenti, aiuta una buona causa, perché più viene scaricata, più diventa intelligente e aiuta migliaia e migliaia di non vedenti di tutto il mondo. Ecco, bene, una app interessante e utile. Salamino! C'è il capo e c'è la capa. C'è appunto il capo. Il capo è Matteo Renzi, ma soprattutto c'è la capa, ovvero Maria Elena Boschi Soave, ministro delle riforme, che stabilisce e impone in virtù del carisma la propria leadership. Ecco, la situazione internazionale disastrosa com'è distrae sui guai veri dell'Italiuzza, ma la corrente di Maria Elena Boschi è nata. Ne aveva dato già notizia sulla stampa il nostro Giuseppe Alberto Falci, che è il più informato degli informati, e mentre ancora ieri il capo, accompagnato dalla di lui signora, andava in Nevada, la capa in Italia proseguiva nel lavoro di mobilitazione dei fedelissimi propri di propria proprietà. E dopo la lunga marcia, come Mao Zedong, il timonier toscano si ritrova ad avere il contrappeso dei contrappesi, ovvero sia la banda dei quattro. C'ha Luca Lotti, Marco Carrai, Filippo Sensi e poi Maria Elena nel ruolo che fu della vedova di Mao. Ora non si potrà più dire non c'è alternativa a Renzi. L'alternativa a Renzi c'è ed è lei! L'alternativa a Renzi è lei. Ancora ieri, davanti a un piatto di riso basmati con le verdure, non so perché mangiano sempre sto riso basmati con le verdure, un po' figo. Festeggiando l'assunzione del fratellino di lei in una cooperativa. Vabbè, poveraccio. Festeggiando giustamente, poi in Sicilia a Caltanissetta con tutti i disoccupati che ci sono, festeggiano giustamente un figlio che travaglia nella galleria di Caltanissetta, un ingegnere. N'avemo un ingegnere in Sicilia. Comunque transeat, come dicono quelli colti, c'è lei e il suo esercito che mangiano riso basmati con le verdure. Io non so da Giovanni Burtone come fa a mangiare se sto riso basmati con le verdure. Detto ciò, l'esercito di Maria Elena ha rinnovato fedeltà alla capa, e siccome vantaggio non si dà a nessuno, nel bersaglio già c'è uno dei piedi dei quattro piedi della banda dei quattro, cioè contro Luca Lotti, il quale da par suo s'organizza una propria corrente e a Maria Elena Boschi manda a dire tutto ciò. Ma non è suo papà? Ah no, no. Basta. No, ma questo l'ha detto Lotti. Ah, però, se l'ha detto Lotti, forte, allora, sì. Con scarsa pietà. Ma non è suo papà? Ma dai, su. Ma allora tu sei fazioso. No, però, sì. però se lo dice Lotti, ricordiamolo che è quello che dà i finanziamenti ai giornali. Cipe. C'è ancora una bolla, Mario. Sì. chi se lo ricordava che la Spagna è ancora senza governo? Ragazzi, tre mesi. Scusa, è l'Europa. Ridiamo tutti perché questo è saltato tutto. Bene, sì, come il Belgio che da quando ce l'ha si fa, diciamo così, infiltrare leggermente dai terroristi ovunque. E insomma, è sempre in carica, diciamo, Rajoy, Mariano, sì. Per l'ordinaria amministrazione, gli affari correnti. Sono trascorsi tre mesi dal voto. Podemos, che doveva essere la rivoluzione, il cambiamento, la nuova era, il change, l'hope obamiano trasferito in Europa con un po' di salsa grillina, alla fine non è stato proprio niente. Un partito come gli altri, stanno litigando come dannati, si scannano nelle sue fila, ci sono delle dimissioni. Oggi Iglesias si incontra con Pedro Sanchez, che è il leader dei socialisti, un altro incontro, un altro giro, un'altra cosa, faranno il governo, non si sa, forse hai ragione tu. Quasi quasi meglio che non ne abbiano uno e buonanotte, sì, vediamo cosa fanno. Canzoniere! Tu ti arrovelli talora come un indemoniato. Tu aggrovigli, tal'altra, in guisa un affare che lo stesso Satana non vi si raccapezzerebbe. Tu metti al titolo una minuscola e non metti poi data o numero d'ordine. Maledetto Alocco. Certo, è geloso che io sieda nel gabinetto del direttore che temperi le matite per sua eccellenza. A farla breve, io non andrei al ministero se non avessi la speranza di fare una visitina al cassiere e vedere se vi sia mezzo di chiedere a quell'ebreo una piccola anticipazione, sia pur misera, sul mio stipendio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS Pietrangelo, dai un aiutino, questo è difficile. No, intanto non è difficile, no. Era facilissimo quello di prima, i scecchi non hanno indovinato. Erano i versi alati di Gabriele D'Annunzio, questo colpa dei professori di liceo che non lo fanno studiare, vergogna. Va bene, e questo? Lo fanno studiare? Questo no, figurati, no, manco. Manco, quindi non indovinerà nessuno. È un grande della letteratura, come grande D'Annunzio, insomma, datemi una svegliata. E questa è colpa del governo Renzi. No, vedi. Ora mandiamo i caschi blu della cultura agli ascoltatori. Stiamo a posto. Così impara. Dai, su, pubblicità. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta... Mix 24. What would your ultimate aim be? Well, I'd like to be a world champion. And keep it for maybe 20 years or so. 20 years. Voglio diventare campione del mondo e restarlo per 20 anni. E Bobby Fischer, un adolescente timido ma risoluto che diventa un campione entrato nella leggenda. L'estate del 72, a Reykjavik in Islanda, lo scacchista americano batte il russo Spassky. È il match del secolo e in piena guerra fredda la vittoria è un'eco straordinaria, una vittoria breve. Bobby ha un talento unico ma una personalità fragile e eccentrica. Scandali, fughe sconvolgono la sua vita. Non tornerà mai più negli Stati Uniti. Bobby Fischer, il campione più amato e detestato nella storia degli scacchi, il mito e la caduta, le sfide e la follia. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Molti ci hanno chiesto precisazione sulla app presentata da Alessandra Cravetto e iPoly, che è un'applicazione, quindi se vi interessa scaricarla, di quello si tratta. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, sentiamo il nostro amico. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Allora, Gordon, ogni tanto va a sedersi. Guarda che Gordon Gekko quando si arrabbia, bisogna stare attenti. Sì, sì, ti fa fare la fine della Teldar Carta, che era l'azienda che voleva smembrare. Allora, no, ci sono le stime della crescita dell'Eurozona, che anche Standard & Poor's, che è arrivata oggi, ma già era stato detto, insomma, sono state un po' tagliate, l'1,5 quest'anno, e le proiezioni erano 1,8 e 1,6 nel 2017. Poi c'era la reazione del mercato alle dichiarazioni ieri della Federal Reserve, che andrà molto cauta su un aumento dei tassi. Le borse stanno andando bene, c'è pressione sul dollaro, insomma è una situazione abbastanza strana. L'avevamo un po' anticipata, non perché siamo particolarmente bravi, ma perché in fondo i pezzi del mosaico andavano tutti da quella parte, cioè che sull'aumento dei tassi di dicembre poi ci sarebbe stato un ripensamento. La vera incognita che si porrà da qui ai prossimi mesi, quindi aprile, maggio, giugno, diciamo, è il Brexit. Quello potrebbe essere un grande shock. Ci torneremo, e le possibilità, sì, sicuramente ci torniamo, certo, e le possibilità allo stato attuale che l'exit, quindi del Regno Unito, si concretizzi, cominciano a essere molto alte. Sì. Bene. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, febbraio 2016. Farmaci topici non cortisonici per il dolore muscolo-scheletrico acuto. Quante volte vi sarà capitato di averci una distorsione, una contrattura, uno strappo e il medico vi ha dato una pomata, un gel, un cerotto imbevuto di qualche sostanza che era consigliato per dare un sollievo al dolore che la distorsione, lo strappo, la contrattura provoca? Ho visto in molte persone un po' di diffidenza per dire ma faranno qualche cosa? E allora ben viene questo studio che ha valutato 8.600 persone che avevano avuto contratture, distorsioni e strappi, vedendo se le pomate, i gel, i cerotti con diclofenac, ibuprofen e ketoprofen, cioè i cosiddetti farmaci antiflogistici non steroidei, cioè non c'è cortisone dentro, sono degli antinfiammatori di uso comune, se questi farmaci facevano qualche cosa. E allora si è visto che c'era un successo clinico a 7 giorni con queste pomate, gel e cerotti, con una riduzione del 50% di più nella intensità del dolore, e con i pazienti che davano un voto al trattamento di molto buono o eccellente. E quindi allora possiamo avere confidenza, e il lavoro ci dice anche che le soluzioni con le pomate, voglio dire con il gel e con il cerotto, oppure le formulazioni con il cerotto, sono quelle che danno i risultati migliori. Allora è evidente che non risolve in modo magico, ma queste pomate, questi gel, questi cerotti sono un valido aiuto quando la partitella di pallone ha dato qualche conseguenza. E per finire, Gloria Guerrera, questa mattina cosa ci propone? Ho scelto una canzone per chi ha la forza di entrare dal cervello e raggiungere il cuore, ma proprio in fondo al cuore. Lucio Battisti, Respirando. Respirando, la polvere dell'auto che ti porta via. Mi domando, perché più ti allontani più ti sento mia. Respirando, il primo dei ricordi che è veloce a fare. Sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più antico amore. Respirandoti io corro sulla strada senza più frenare. Respirandoti sorpasso sulla destra e vedo un gran bagliore. lontano una sirena e poi nessun rumore, lasciarti fra i dolori quel che fa più male,